Lon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti, da Olga e Alessia. Bentornate e bentornati su Radio Città Fujiko, questa è Vallun ed è la vostra mezz'ora di storia. Del sabato pomeriggio. Il nostro mese partigiano continua con l'ultima puntata alla vigilia del 25 aprile. Vi abbiamo raccontato le fake news sulla resistenza armata con Chiara Colombini e il suo libro, anche i partigiani però, e vi abbiamo raccontato anche la biografia di Selva Vampir, ebrea e partigiano olandese. Potete riascoltare i podcast su www.radiovallun2o.info. Oggi torniamo sulla Via Emilia per riprendere un tema veramente a noi caro, quello dei partigiani stranieri che hanno combattuto in Italia. Se vi ricordate, un paio di anni fa ci eravamo già occupati di questo tema, in particolare dei partigiani stranieri che si erano uniti alla resistenza emiliana e bolognese. Queste persone erano per lo più sovietici e jugoslavi, evasi dalle prigioni tedesche, ma anche internati militari che combattevano per il Commonwealth. Difficile però rintracciare storie e volti precisi di queste persone, cosa che ci rammarica molto. Quello che importa però è che la storiografia e la ricerca sui partigiani stranieri in Italia ci confermano quello che noi sospettiamo da sempre, ovvero che la resistenza è stato un movimento che ha travalicato confini e razze e che ha avuto un comune denominatore, ovvero la sconfitta di tutti i fascismi. A proposito, la resistenza italiana fu un movimento antifascista e contro l'invasore, ma non fu sicuramente un movimento nazionalista né esclusivamente bianco e patriottico. Lo storico Claudio Pavone, che a noi piace tanto, sottolineò come la Seconda Guerra Mondiale superò subito le classiche divisioni nazionali, sia mediante le forme di collaborazionismo con gli occupanti, con i nazisti, sia mediante l'adesione ai movimenti di resistenza attivi nei territori occupati, al punto che fu strettissimo l'intreccio della guerra fra le nazioni e guerra civile. I partigiani di ogni paese riconoscevano un compagno di lotta nello straniero antinazista e antifascista e un nemico mortale nel connazionale collaborazionista. Tra il 1943-45 quindi c'erano oltre 50 nazionalità rappresentate nella resistenza italiana. Con lo stesso sguardo attento all'internazionalismo partigiano e all'accoglienza verso i migranti in fuga, lo scorso anno abbiamo poi intervistato Matteo Petracci a proposito del suo bellissimo libro dal titolo Partigiani d'Oltremare, che è l'esito della sua ricerca sui combattenti dal Corno d'Africa nelle Marche, in particolare nella banda di Mario De Panger sul Monte San Vicino. Oggi aggiungiamo un tassello in più a questa storia e lo facciamo presentando in anteprima un progetto e un libro, Partigiani della Wehrmacht, disertori tedeschi nella resistenza italiana, a cura di Yara Meloni e Mirko Carrattieri, edizioni Le Piccole Pagine 2021. Il libro esce il 2 maggio e qui con noi avremo a breve Yara Meloni, che è la curatrice del volume e dottoranda all'Università di Milano. Quella dei disertori tedeschi è una parte della storia se non ignorata, quantomeno sottaciuta per molti anni, nonostante già Roberto Battaglia, il primo storico della resistenza, già nel 1960 avesse scritto a chiare lettere che nelle brigate partigiane nel nord Italia c'erano molti, molti tedeschi. Perché allora questa informazione, questo dato sia stato ignorato per molti anni? Per molti motivi, pensiamo noi, e non ultimo il fatto che la memoria pubblica della resistenza, soprattutto nei primi 2 decenni dopo il 1945, si serve della narrazione della lotta di liberazione contro gli invasori, e gli invasori sono chiaramente tedeschi. Un cambio di paradigma comincia a esserci negli anni 80 e poi il tema viene ripreso anche da Claudio Pavone, che abbiamo già citato, nel suo capolavoro del 1991 una guerra civile, quando parla di diserzione come unica scelta morale davvero possibile per i tedeschi. Mentre la incoraggiavano, quindi la diserzione, per farne un chiaro segnale dello sfaldamento della poderosa macchina da guerra nazista, i comandi partigiani cercavano di stemperare l'odio nei confronti del nemico, invitando a distinguere tra nazisti e tedeschi. Proprio a sottolineare che era una guerra antifascista contro il nazismo e contro il fascismo e non contro un'etnia o una nazionalità in particolare, al contrario di quello in cui credevano i nostri nemici. Una curiosità è del 2009 la riabilitazione dei soldati tedeschi che hanno disertato durante la Seconda Guerra Mondiale, ma non di quelli passati al nemico, ovvero in molti casi nelle brigate partigiane. È il mito della compattezza e dell'inscalfibilità dell'esercito. Le 4 di notte, sono in pigiama, in preda alla noia, scendo sotto casa, salgo sul tettuccio di quel fuoristrada, col megafono a palla canto una serenata. Io me ne scappo, ma quale patria? Io me ne sbatto, tu mi imponi le divise, io me le strappo. Ho due bottiglie, tu combatti, io me le stappo. Disertore a vita, e me ne vanto. Se foste come me non ci sarebbe guerra in atto. La cadenza e il passo, sono demodè, io la sera me la spasso. Sanguisuga, rispondo, fallo pure tu, vieni avanti, suca. Ho ancora voglia di irritarti, morso di zanzara, e te lo manifesto dada come Tristan Zara. Sono l'annegazione, sono irrazionale, amo l'arte, detesto l'orgoglio nazionale. Rompo gli schemi, tu rompi di tibie e perone, perché non vieni insieme a me? Al cavale voltaire, comunque nada, comunque nada, comunque nada. Al cavale voltaire, comunque nada, comunque nada, comunque nada. Zero. Mi hai detto, capa, io canto le mie canzoni fiero. Sì, mi ricordano un'opera di Manzoni, credo. E non parlo di Alessandro, ma Manzoni Piero. Questa canzone è ready made, nata già pronta, e suona come fare i baffi sulla Gioconda. Più fastidiosa di un nuvolo di pettegole, ma rende la mia vita più piacevole. Al cavale Voltaire, frasi sconnesse scorgano dall'ugola. Io li fanto bamba, oh falli bamba. Ugo Ball, non hai capito nulla, copia e incolla. Googola, neologismi sciapi dovunque come la rucola. E non mi smuovi, no, proseguo indomito a vedere il bello ovunque, pure nel mio vomito. Estravaganza, vacanza extra, passo la vita che mi resta. Al cavale Voltaire, al cavale Voltaire. Bentornate e bentornati su Radio Città Fucico, siete con Vallun, la vostra mezz'ora di storia. Abbiamo introdotto il tema di oggi, ovvero i disertori della Wehrmacht, e a parlare di questo interessantissimo tema abbiamo con noi Yara Meloni, che è la curatrice del libro. Ciao Yara, grazie per essere con noi. Ciao a tutti. Yara, io lo so che tu sei particolarmente impegnata in questo 25 aprile, infatti grazie per aver trovato un buchetto per Radio Vallunio. Comincerei subito con le domande, perché il tema è interessante e ci sarebbe veramente moltissimo da dire. Infatti io ti chiedevo che il tema, come già detto, in sé suscita grande curiosità, perché accostare partigiani e Wehrmacht suona strano, a meno che non siano nemici. Invece scopriamo che molti disertori si uniscono ai partigiani locali per combattere la guerra contro quelli che erano stati i loro ufficiali, i loro concittadini. Ci racconti come nasce questo progetto? Sì, effettivamente pensare di accostare i partigiani e la Wehrmacht è molto strano, appunto perché era molto difficile disertare sia dal punto di vista materiale che dal punto di vista morale. Per un tedesco diventare partigiano era una scelta coraggiosa, e quindi ci sembrava giusto metterla particolarmente in luce. Il progetto è nato circa 2 anni fa su idea di Sandro Beretta, un piccolo e direi anche molto coraggioso anche lui in questo periodo storico editore, molto attento alla storia, che appunto ci ha contattato per chiederci di occuparci di questo tema. ci siamo subito resi conto con Mirko Carattieri, che con me ha curato questo volume, che questa scelta, in realtà questa scelta coraggiosa, era stata poco trattata dalla storiografia, anche se ci sono alcune eccezioni, perché già Roberto Battaglia, per esempio, nella sua storia della Resistenza diceva che c'erano anche dei partigiani tedeschi, poi ci sono degli studi locali. Però insomma abbiamo trovato poco scritto. È stato molto importante per noi conoscere Francesco Corniani, che era un giovane da poco dottore di ricerca all'Università di Trieste, con una tesi proprio sui processi per diserzione nella Wehrmacht, che aveva fatto ricerca con gli archivi tedeschi. E grazie a lui siamo stati in grado di stimare che più di 1000 appartenenti alle forze armate tedesche sul fronte italiano avevano disertato, e alcuni si erano anche appunto uniti alle bande partigiane. È stato molto prezioso per noi anche il contributo poi degli istituti storici della Resistenza e di luoghi di memoria, che ci hanno segnalato numerosi casi locali, tra i quali abbiamo scelto 13 storie di vita, che cercando di coprire un po' tutto il territorio nazionale, da Bolzano a Viterbo, dalle Langhe alla Carnia, e cercando soprattutto di mettere in luce le storie dei soldati di nazionalità tedesca, perché in realtà nella Wehrmacht erano aggregati anche soldati di molte altre nazionalità, quindi soprattutto storie come quelle degli slavi o dei russi che si uniscono alla Resistenza erano già più note. Sì. Sì, infatti immagino che cioè, la scelta di queste persone di disertare dal proprio esercito nazionale e poi in molti casi andare a combattere al fianco dei partigiani, insomma, è una scelta coraggiosissima, come giustamente dicevi tu. E giustamente dicevi anche che avevate trovato poco di fonti scritte per tutta una serie di motivi, ma allo stesso tempo leggevo sul libro che nella cultura popolare invece è vivo il ricordo di questi tedeschi, no? Che combattono a fianco dei partigiani. E, ti volevo chiedere in generale come avete messo insieme queste storie tu e Mirko nel volume. Quello delle fonti è stato da subito un problema, perché ovviamente chi disertava stava compiendo un'azione molto pericolosa per sé e per i propri familiari in Germania, e quindi ovviamente la prima avvertenza era quella di lasciare meno tracce possibile. Quindi ci sono state fondamentali le fonti orali e la memorialistica, quindi i ricordi di partigiani che avevano conosciuto dei compagni di brigata, di divisione tedeschi. Non a caso uno dei primi volumi che parla di tedeschi buoni, che rovescia lo stereotipo del bravo italiano, del cattivo tedesco, è proprio quello di Nuto Revelli, Il disperso di Marburg, sì. Che parte dalla storia di un partigiano che si ricorda di un tedesco che, al contrario dei suoi commilitoni, era buono e aiutava le popolazioni italiane. Quindi questa memoria è rimasta viva. Però abbiamo cercato di coniugarla con anche delle fonti documentarie, non solo le fonti giudiziarie tedesche delle quali ho parlato, ma poi anche, per esempio, le fonti sui riconoscimenti partigiani. Sì, perché all'interno di questo fondo, scusami, dimmi se mi sbaglio, del Ricompart, quindi del riconoscimento dei partigiani, avete trovato delle schedine, io le chiamo, partigiane, in cui c'erano i nomi tedeschi. Esattamente, magari storpiati o trascritti male, sì. Però bisogna ricordare che queste fonti, che sono fonti prodotte al momento della smobilitazione per verificare chi era partigiano, chi no, chi aveva effettivamente fatto il partigiano, tendono a sottostimare la presenza tedesca e degli stranieri in generale, perché sì. Uno straniero magari alla fine del conflitto faceva ritorno in patria e non aveva tempo di seguire l'iter burocratico che serviva per ottenere il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente, ma anche perché per un tedesco tornare a casa con un documento che attestasse che aveva contribuito alla sconfitta della propria patria e aiutato quello che per molti era ancora il nemico. Poteva essere esporre non solo a critiche o a vendette, ma anche addirittura a processi militari, quindi molti probabilmente non l'hanno richiesto. Anche se il nazismo era stato sconfitto, quindi tu dici che anche dopo il 45 non era un merito in Germania disertare? Assolutamente, nella cultura tedesca c'è una ancora per tantissimi anni un grandissimo stigma nei confronti di chi aveva disertato e si vengono fortemente criticati. Ancora una mostra che viene fatta per documentare il comportamento della Wehrmacht in Italia, che insomma mette in luce il comportamento dei soldati, anche dei soldati non solo delle SS ma dell'esercito appunto della Wehrmacht in Italia, è oggetto di pesantissime polemiche. Mm-hmm. E viene fortemente criticata, quindi a lungo questi disertori sono stati oggetto di critiche. Non a caso molte delle storie che noi abbiamo raccolto nel libro, anche grazie a, diciamo, è un volume collettivo, quindi tanti ricercatori hanno lavorato con noi. Certo. Sono state storie che sono nate dai figli, i figli dei disertori che hanno scelto di tirare fuori dai cassetti i documenti, memorie che i loro padri avevano nascosto per tanti anni e che vengono portate alla luce solo dopo la loro morte, quando insomma non hanno più paura di ritorsioni. Certo. E Yara, a proposito di questi disertori, tu all'interno del volume di cui sei curatrice hai anche scritto un saggio e parli di questa di quest'uomo, questa figura di Alfred Anders, lo dico bene? Alfred Anders. Ok, che è un soldato tedesco che diserta e non va dai partigiani ma si consegna direttamente agli alleati. E lui poi ci scrive un libro nel 1952. Ci racconti un po' questa storia, che è particolare, quantomeno particolare. Sì, abbiamo scelto di inserire il caso di Alfred Anders proprio perché forse è il caso di diserzione più noto nella letteratura tedesca. Questo romanzo biografico, che esce già nel 52, molto presto, Le ciliegie della libertà, espone Anders a pesanti critiche. Basti pensare che quello che è il suo più grande poi collaboratore, un collega, uno scrittore, che è Hans Werner Richter, scrive negli stessi anni un romanzo biografico simile che si chiama I Vinti, in cui però al centro c'è appunto il fatto di essere uno sconfitto. Al contrario, Anders è forse il primo a rivendicare la diserzione come una scelta morale e come un gesto dal preciso valore politico. Anche per questo la sua storia e la sua fama lo porterà a essere al centro della vita politica culturale della Germania Ovest. Sarà infatti animatore del gruppo 47, che è il gruppo letterario che diciamo reinventa la letteratura tedesca dopo il nazismo, ma anche in Italia, con la quale Anders continua a avere dei contatti e dove appunto diventa la persona che porta in Germania letteratura sulla resistenza come quella di Vittorini e la fa conoscere al pubblico tedesco. Però lui, scusami, quindi, si attira delle critiche, no, per la diserzione in patria? Attira pesanti critiche da subito. L'argomento della diserzione è ancora negli anni 50 un argomento tabù, e il fatto poi di avere collaborato con gli alleati, perché lui quando viene catturato, poi quando viene si consegna agli alleati e da prisoner of war lui cura questa rivista Der Ruf, La Voce, dedicata proprio ai prigionieri di guerra tedeschi negli Stati Uniti e che cerca in qualche modo di riconquistarli agli ideali della democrazia. E quindi lui in qualche modo è visto anche come un collaboratore, una persona che si era in qualche modo prestata ai piani del nemico, e quindi la sua figura è fortemente criticata, ma è stata anche curiosamente criticata anche in seguito, perché ancora negli anni 2000 la figura di Anderson al centro della attenzione pubblica tedesca, proprio perché questa volta invece a additare la sua storia è uno scrittore che è Sebald, che vuole dire che mettere in luce così tanto la scelta della diserzione, una scelta anche catartica, era stato anche un modo per non parlare, per omettere le precedenti compromissioni pesanti che Anders aveva avuto con il regime nazista, quindi anche un modo per dire alla generazione dei padri, alla generazione della Wehrmacht, che non aveva fatto forse fino in fondo i conti sull'ascesa e poi sul consenso al nazismo. Poi mi dicevi che ci sono anche delle, scrivevi sul saggio che ci sono anche delle cose poco chiare, perché non alcune date non ridanno, quindi forse lui ha inventato qualcosa, Anders, ha romanzato parte della sua vita? Assolutamente sì, è molto probabile che lui l'abbia fatto, ma al di là della visione di Anders è proprio interessante vedere come in queste memorie che poi escono di disertori, Anders è anche molto coraggioso a pubblicarla presto, ma in seguito poi a partire dagli anni 80, anni 90, quando cambia la mentalità, ci sono anche importanti iniziative nella cultura tedesca per riabilitare i disertori, escono delle biografie di disertori finalmente, però anche lì molte sono criticate perché appunto si mette in luce sempre il momento in cui si era disertato e si era uniti effettivamente ai partigiani, ma non si fa parola per esempio delle stragi di civili che erano state fatte magari prima con i propri reparti. Esatto. Senti Yara, un'ultimissima domanda. Il 2 maggio esce il libro Partigiani della Wehrmacht, quindi lo porterete in giro sperando anche di fare qualcosa in presenza, di sponsorizzarlo così. E il progetto dopo il libro come continua secondo te? Allora, assolutamente, intanto aspettiamo di avere in mano, con ansia di avere in mano il libro. Noi già da qualche mese abbiamo anche aperto una pagina Facebook, proprio perché ci siamo resi conto che durante la stesura del libro ci continuavano ad arrivare delle nuove segnalazioni, delle nuove storie di persone che magari appunto avevano conosciuto, avevano saputo che in qualche brigata partigiana di provincia c'era stato un disertore tedesco. Quindi noi speriamo che si possa continuare e si possano raccogliere anche storie, altre storie. D'altra parte, questo approccio qui della storia un po' esistenziale, delle singole biografie, ci è sembrato anche particolarmente ricco, perché grazie appunto ai diversi storici, sono mi sembra 16 i storici e storiche che abbiamo coinvolto in questo progetto, tra Italia e Germania, quindi anche ci sono anche dei tedeschi, hanno tirato fuori veramente un aspetto molto molto sfaccettato della diserzione in Italia, molto più di quello che pensavamo di ottenere all'inizio, quindi il quadro che ne viene fuori è molto variopinto e speriamo che si possa allargare con altre pennellate. Noi di Vallun seguiremo ancora il progetto perché ci interessa tantissimo, anche perché questo è un altro tassello che ci ricorda che la resistenza italiana non è una resistenza nazionale, ma travalica i confini e travalica davvero le razze e i generi, e quindi siamo veramente contenti. Grazie Yara. Grazie a voi, buon 25 aprile. Ringraziamo ancora Yara Meloni per essere stata nostra ospite, che è autrice e curatrice del libro Partigiani della Wehrmacht, che sta per uscire il 2 maggio, quindi questa è anche un rilancio di questa bellissima lettura che vi consigliamo di fare. E poi ci diamo appuntamento domani 25 aprile in Piazza dell'Unità alle ore 10 per la manifestazione e corteo antifasciste sempre, resistenze contro la crisi. Saremo in tanti, anche noi di Vallum saremo lì presenti e vi lasciamo in musica, vi auguriamo un buon 25 aprile, ci sentiamo la prossima settimana, ciao! Tanti auguri! Cantano con il Breda, cantano con lo Sten, cantano con il Bren. I disperati senza più tetto, col cuore a brani nel